Quello che c'è contenuto in questo progetto che è stato presentato non è un progetto di riqualificazione, è una fotografia di quello che la biblioteca fa in questo momento, per il quale viene assicurata una continuità per il futuro. Tuttavia questo non è contenuto né nel bando né nel contratto che viene fatto alla cooperativa, quindi bisognerà vedere come questo sarà possibile realizzare, perché la cooperativa ovviamente ha partecipato al bando sulla base di semplici orari di apertura. Quello che invece si chiede qui, intanto c'è un allargamento di orario che probabilmente potrà essere fatto attraverso questo 20% che il comune si tiene. Tutti gli altri servizi che sono quelli di entrare in rete col territorio non si capisce bene chi li faccia, perché dovrebbero essere fatti da personale comunale, tuttavia non è possibile che personale comunale sia presente nella biblioteca, perché altrimenti non ci sarebbe, adesso è una cosa tecnica, comunque certo, non ci sarebbe risparmio dell'IVA, che per esempio è stato adotto dal comune come una cosa di risparmio, perché il risparmio dell'IVA ci può essere solo quando c'è un'esternalizzazione totale. Quindi come verrà effettivamente attuata questa cosa dal punto di vista pratico, dal punto di vista anche tecnico, come si potrà fare? E poi questo risparmio, soprattutto come abbiamo notato, sarà un risparmio tra virgolette che andrà a toccare i soliti noti. Assolutamente, è evidente che il risparmio è tutto sulla pelle dei lavoratori. Già adesso il tentativo che si fa è quello di mettere un po' in contrapposizione, no, il lavoratore del pubblico con quello delle cooperative. In realtà già adesso molti lavoratori delle cooperative lavorano a fianco con gli altri, ricevendo ovviamente dei compensi minori, ma soprattutto degli orari diversi, perché spesso sono spostati con discrezionalità della cooperativa da una cooperativa all'altra. Quindi anche questo non può essere garantito, per esempio, nella continuità del territorio. Non dimentichiamoci che sempre sotto merola, credo nella passata legislatura, i lavoratori delle cooperative non potevano svolgere alcune funzioni. Adesso non è più così, però è evidente che comunque il risparmio che viene fatto, cioè matematico, viene fatto soprattutto rispetto al trattamento dei lavoratori, e anche questo è, come dire, impedisce anche che ci sia, al di là, voglio dire, delle rivendicazioni che possono sembrare di carattere sindacale, ma anche questo impedisce la mancanza di continuità. La mancanza di progettazione con l'utenza che sia in continuità impedisce che ci sia anche una crescita, un'esperienza di laboratorio con gli stessi utenti. Passiamo a un altro argomento molto delicato, che è relativo alla zona, per poi magari estendersi anche a una cosa più generale, ma in ambito di case popolari, un quartiere che ha una certa storicità, l'importanza di una popolazione quanto mai variegata positivamente, certo, anche se vogliamo, sì. No? Si va a colpire una realtà veramente fondamentale per i nostri principi e per l'aspetto progressista della zona. Assolutamente. L'AME, a differenza della Bolognina, si può essere anche considerata un po' la vera periferia del Navile. Cioè è un territorio che ha nella biblioteca e nelle scuole e nelle relazioni della biblioteca e le scuole, in realtà, gli unici punti di incontro che ci sono, e hanno funzionato molto bene sia a livello intergenerazionale sia a livello anche multiculturale, perché la biblioteca agisce assolutamente in sinergia sia con le scuole, con tutte le associazioni, quindi c'è all'interno della biblioteca una rete di associazioni. Non c'è, il quartiere Lame non ha, per dire, anche solo un cinema, non ci sono effettivamente dei punti di ritrovo. Per questo questa biblioteca c'è questa partecipazione, perché effettivamente è il posto dove l'anziano viene a leggere il giornale senza pagarlo, ma è anche il posto dove in realtà, quando noi diciamo, quando spesso in quartiere succede che ci sono i cosiddetti processi partecipativi sull'integrazione, per esempio, allora lì si dice, beh, però parliamo di integrazione, di multiculturalità, ma qui non ci sono in realtà i cittadini stranieri, eccetera. Ecco, nella biblioteca Lame invece questo c'è. C'è la partecipazione, c'è, perché ci sono tutti i ragazzi, ci sono tutte le famiglie, di fatto c'è una naturalità di rapporto fra i bambini, vengono fatti dei progetti insieme, quindi quel processo partecipativo si realizza dentro un luogo come la biblioteca, ed è quello che dicevo prima, cioè non fare le cose solo per, ma anche con i cittadini, è questo che fa della biblioteca un bene comune, insomma. Ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo, ma cosa ci aspettiamo? Io purtroppo non so cosa aspettarmi, nel senso che credo che questa questa cosa sia sfuggita completamente di mano, perché l'intento ovviamente era, la sperimentazione era quella di allargare il processo di esternalizzazione. Contrariamente a tutte le aspettative, essendo questo luogo così amato, c'è stata una partecipazione imprevista forte. Molto forte, che ha bloccato questo processo, anche a fronte del fatto che manca completamente un vero progetto di riqualificazione. E tutti questi sono tentativi, non so bene di che, di dire no, c'è un progetto, lo costruiamo insieme, però non tanto insieme, perché non facciamo metà e metà. Quindi io non so come aspettarmi, io spero che ci possa essere, che quel 20% per esempio possa essere utilizzato invece che, o anche per allargare l'orario al sabato per esempio, che è una cosa sicuramente utile, ma possa essere utilizzato per mantenere invece una parte del personale comunale per esempio.